giorno nasce è per te. Il sole sorge e piange che cade su di me. Sei il vento che mi porta solo. Sei reale, sono ma non lo so spiegare. Come non sei reale, sono ma non lo so spiegare. Solo sfiorarti, puoi giocare a diventarti, perché vorrei solo sfiorarti, puoi giocare a diventarti. A diventarti. Questo gelo che a me giorno dopo giorno manca il respiro. Se non ci sei, se non ci sei, grazie a te. È per te. Sole sorge, se piange che cade su di me. Vento che mi porta solo.